La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Marco Perini vive a Beirut, in Libano. Ci è arrivato dopo aver lavorato nelle ONG in giro per il mondo. Una parte di mondo, quella afflitta dalle guerre e oppressa dalla miseria. Era un giornalista prima. Nella sua vita, però, a un certo punto tutto è cambiato, all'improvviso. Si è trovato in Ruanda durante la guerra e da allora non è riuscito più a tornare a casa senza aver aiutato qualcuno. Per noi, Marco Perini è quasi uno sconosciuto, ma ci sono dei bambini a Beirut che quando lo vedono arrivare saltano dalla gioia, perché Marco è l'uomo che porta il cibo, le calze, le scarpe ai profughi siriani, centinaia di migliaia di persone che arrivano ogni giorno dopo una fuga disperata a piedi. Sono persone che si lasciano alle spalle fratelli, mogli, figli, padri, madri, gente che non ha più nulla, proprio niente. Bambini che si sono salvati perché erano i più forti. Questa è la guerra. Questa è una guerra che non fa rumore, resta chiusa fuori dalle nostre case. Io sono il rappresentante di AFSI in Libano e in questo momento mi trovo a Beirut. La situazione è drammatica perché proprio questa mattina l'Orient Le Jour, il giornale francofono libanese, diceva che tra profughi scappati dalla guerra e registrati all'UNHCR e profughi scappati dalla guerra e non registrati perché hanno le possibilità di vivere negli alberghi o affittando casa a Beirut, parliamo di 900.000 persone. Se si tiene conto che il Libano ha 4 milioni di abitanti, si può capire che averne quasi un milione di persone che arrivano all'improvviso dentro al tuo paese, questo crea dei problemi. Senta, lei quanti anni ha? Io ho 44 anni. È la prima volta che, diciamo, è in un contesto del genere, che vede una cosa del genere? No, purtroppo no, nel senso che le ho viste ad esempio in Congo e in Ruanda per situazioni diverse. La prima volta che le vedo a causa di una guerra, non so se si può fare la differenza tra una guerra vera e una meno vera. Dopodiché questa è una guerra a tutti gli effetti. I nostri amici che stanno vivendo in Siria ci dicono che non ci sono più intere città rase al suolo da bombardamenti di aerei o di terra e da missili. Queste persone arrivano qui e arrivano raccontandoci lo strazio, i traumi e vivendo i traumi di una guerra, ripeto, se posso chiamarla tra virgolette vera, non perché le altre lo siano un po' meno, ma probabilmente questa lo è un po' di più. Io sono padre di una bambina e il silenzio che sento in Occidente mi fa chiaramente arrabbiare. Nel senso che a quanto pare noi occidentali, mi ci metto anch'io, abbiamo probabilmente più attenzioni per certe guerre o certe situazioni e meno attenzione per altre. Io credo che quando c'è un bambino in questo momento in un campo profughi nel Libano, senza scarpe a 2 gradi e senza cibo, debba svegliare ogni coscienza, per prima la mia e la nostra. Dovremmo fare molto di più, non lo so perché, non lo so. So che questa intervista che lei mi sta facendo mi dà speranze, io spero di far capire che c'è tanto bisogno anche dell'aiuto di ogni singola persona, che può essere un euro, può essere un pacco di pasta, può essere qualsiasi cosa, e deve soprattutto essere non dimenticare quello che sta succedendo. Lei ha detto che ha una bambina, a questa bambina sta raccontando quello che fa lei? Allora, la mia bambina vive qui in Libano con me, insieme a mia moglie, è piccola per capire quello che sta succedendo, dopodiché si è accorta di qualcosa di strano perché io e sua mamma abbiamo deciso di sbarazzarci di tantissime cose che ci sembravano utili per lei, invece non lo erano, a cominciare da tanti giochi inutili che io spero che, intanto è stato un bel esercizio per me e per la mamma di Francesca, io spero che Francesca un giorno mi chiederà perché gli portai via un giorno dei giocattoli, ecco. Marco Perini ha 44 anni, una bambina e una voce pacata. Vive a Beirut e sta lavorando tra migliaia di persone che non hanno più niente. Quando gli chiedi come fa a tornare a casa e giocare con la sua bambina, ti risponde così. Ma io non credo che si possa tenere fuori, non credo che sia neanche che sia giusto tenerlo fuori. Nel senso che io lo condivido 24 ore al giorno con le persone che stanno intorno a me, che siano colleghi, familiari o amici. È una passione per... Non sono meriti miei, è una passione per la persona. Quando tu hai davanti qualcuno che ti chiede un aiuto o ti dà un sorriso o ti dà un aiuto, questa cosa che ti chiedo che ti dà dura 24 ore, quindi cioè non è un lavoro che finito l'orario di lavoro torni a casa e inizi un'altra vita. No, purtroppo e tristemente, dico io, in questo momento in Libano la vita è questa e in Siria è molto peggio. Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. La prima volta. Questo che avete sentito è quello che sente chi vive in questo momento in Siria. Carri armati, bombe, qualche radio ricetrasmittente che emette suoni metallici. Poi c'è la gente, quella che è scappata e quella che ha dovuto portarsi dietro un dolore gigantesco, come quello di questa donna siriana a cui hanno ucciso il figlio, un bambino di neppure 10 anni. Marco Perini ha a che fare con questo dolore. La sua prima volta è stata in Ruanda. Anche lì ha iniziato ad aiutare persone che fuggivano da un conflitto e anche allora si è messo in gioco. Questa volta però la gente gli sta arrivando in casa, in Libano. Proprio nei giorni scorsi abbiamo scoperto, nel vero senso della parola, un campo nascosto tra gli alberi e dietro gli alberi ci siamo trovati 1000 persone. Queste persone che arrivano, quelle 1000 di cui parlava, che stavano nascoste, non chiedono neanche aiuto, no? Ormai sono arrivate a un livello di forse disperazione tale per cui non se lo aspettano neanche di poter essere aiutate. Guardi, quando noi siamo arrivati per la prima volta sabato scorso ero con una delegazione dell'ambasciata d'Italia a Beirut. Queste persone ci hanno accolto non bene, erano molto arrabbiate, ma comprensibilmente e giustamente, erano molto arrabbiate, ci chiedevano ma perché venite? Nel senso che loro ormai sono abituati a vedere queste delegazioni di persone più o meno importanti, più o meno ricche e famose che arrivano, guardano, scattano qualche foto, poi vanno e il giorno dopo loro continuano a essere senza, senza cibo. È anche per quello che noi abbiamo lanciato una campagna in Italia chiedendo un aiuto, perché le abbiamo incontrate, abbiamo avuto paura, perché la loro accoglienza non è stata di certo una cosa piacevole per noi, quindi abbiamo sì avuto paura, ma allo stesso tempo abbiamo promesso loro no, vi promettiamo che non ce ne andiamo e ritorneremo. Quindi io insieme ai miei colleghi qui in Libano li abbiamo incontrati ieri, abbiamo dato circa 700 indumenti per bambini, abbiamo promesso loro che un centinaio di bambini dalla prossima settimana riandranno a scuola, perché abbiamo affittato dei pullman per trasportarli dai campi alla scuola. E come le dicevo, giovedì stiamo comprando in queste ore del cibo, giovedì distribuiremo dei kit alimentari dal latte al sale, dallo zucchero alla pasta, per permettere a loro di sopravvivere qualche giorno. È chiaro che allo stesso tempo stiamo lavorando per cercare nuovi finanziamenti, nuove risorse per continuare questo aiuto, perché 8-10 kg di cibo a famiglia saranno sufficienti per 3 o 4 giorni, ma poi il problema si ripresenta. C'è una storia, ci sono sempre delle storie, no? Quando c'è questa moltitudine di disperazione che ti restano dentro, nel suo caso ce n'è una? Sì, ce ne sono tantissime in verità. Tanto alla base c'è che queste guerre pretese giuste da una parte e giuste dall'altra, che chiaramente chi fa la guerra pretende di avere ragione, nascosta dietro a primavere, più o meno primavera in sostanza, nascondono sempre situazioni drammatiche, violenze, ingiustizie che fanno rabbia. Io nei miei occhi ne ho tantissime storie, ho la storia di un signore che in maniera assolutamente indifferente ci racconta che lui è in questo momento nella West Bank, ma i suoi figli sono stati uccisi, dice lui, dai ribelli, sua moglie è stata uccisa, dice lui, dall'esercito governativo. Il risultato è che lui è come un ebete, scusatemi il termine, oggi profugo in West Bank, quasi indifferente al mondo, ha perso tutti. Non ha più nessuno e dice sono qui, e ti guarda e questi occhi non esprimono più niente, allo stesso tempo esprimono una rabbia, un dolore pazzesco. Ma questa è una storia, posso raccontarle. Ieri ho incontrato Muhammad in questo campo di 1000 persone e lui mi guarda e mi dice grazie per quello che hai fatto, io sono padre di 19 bambini, 2 sono handicappati, tutto quello che hai fatto è niente rispetto a quello del quale io ho bisogno. Quindi rispetto a queste cose, cioè, non si può restare indifferente, storie così ce ne sono centinaia tutti i giorni. Di passione, spiritualità, e avevano toccato il fondo della loro provvisorietà. Il lavoro di Marco Perini è un lavoro fatto di giornate difficili e di soddisfazioni enormi, come quelle raccolte e conservate in questo documentario. Ciao Charbel, non sono fier de parler nette études à travers le projet de soutien à distance. للقلم الصغير لهذا العدد رح نحكي عن المشاريع الاجتماعية والزراعية بجمعيتنا. عرابي وعرابتي العزيزين، قررت شو رح أعمل بس أكبر، بدي أكون مهندس زراعي، وكل هيدا بفضلكم، بتشكركم من كل قلبي. Alla fine, nella quotidianità faticosa di questo italiano in Libano, ficcato tra profughi di guerra e campi clandestini, c'è una prima, scintillante, meravigliosa volta, ed è quella di scoprire che un bambino ha un sogno, che è quello di diventare ingegnere agronomo. La prima volta termina qui. Grazie per averci seguito. L'indirizzo per scriverci è laprimavolta@radio24.it. Potete riascoltarci in podcast. Noi ci risentiamo sempre domenica, come sempre attorno alle 13. Buona domenica a tutti da Cristina Carpinelli.